vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, e lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo sollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati. Franco Piantenide in redazione, Roberto Scaltritti in regia, Giovanni Capuano al microfono. Nel mercoledì delle nazionali, che come scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando anche come cambierà in futuro il calendario internazionale, rappresenta oggi più un intralcio che un'opportunità per club, per selezioni, per tutti, insomma. Siete tutti convocati per dirci che cosa ne pensate di Italia-Francia. Prima di tutto 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. E buon pomeriggio a un uomo che con la federazione sta lavorando proprio per cercare di costruire un progetto che ci porti ai mondiali del Brasile e anche oltre. Buon pomeriggio da Arrigo Sacchi. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Sono in giornate, immagino, piene di impegni per il coordinatore del settore tecnico della Federcalcio. Ieri abbiamo visto l'Under 21, oggi c'è l'Under 20, poi questa sera la nazionale di Prandelli. Quanto conta per un gruppo come quello della nostra nazionale l'impegno di questa sera? Conta moltissimo, specialmente in un momento di difficoltà internazionali con le squadre di club. L'unica espressione che sta tenendo alto il nome dell'Italia è stata la nazionale del campionato europeo trascorso, dove siamo stati vice campioni d'Europa, un risultato inaspettato. Noi glielo chiediamo anche perché purtroppo, come spesso accade in queste occasioni, si è portati quasi a sottolineare più l'intralcio per i club, invece ha un valore ed è un valore positivo anche in questo momento, anche magari fra due turni di campionato la nazionale. Ma guardi, intanto c'è da dire che sono esperienze che questi giocatori acquisiscono di altissimo livello. In più è una gratificazione enorme per loro. Io sono stato allenatore sia di squadre di club che di nazionali, quindi so che gli allenatori vorrebbero sempre avere i giocatori. Però, a volte bisogna essere anche un po' più lungimiranti, vedere al di là del proprio naso, capire che poi a questi giocatori gli si dà una credibilità, delle conoscenze che molto probabilmente non sempre riescono a trovare giocando contro squadre di Serie A normali. È comunque un momento non semplice da gestire anche per un CT. Beh, è sempre stato così, quindi non c'è da meravigliarci. Purtroppo questo è un nostro sistema calcio, fa dell'immobilità una sua caratteristica, quindi già 40 anni fa era così, 20 anni fa con me era così e lo sarà forse anche fra altri 40 anni. C'è chi ha scritto ad esempio che la convocazione è molto allargata perché Prandelli ne ha chiamati 25, poi per il gioco degli infortuni sono 24 per una singola partita. È stato un po' un modo del CT di prendersi gli stage che con i club non è riuscito ad accordare. È vero, è una lettura corretta? Ma questo non glielo so dire, però è evidente che un allenatore e il CT internazionale è anche un allenatore, per poter insegnare qualche cosa deve avere una frequentazione. Noi per esempio con le squadre minori, l'Under 21, l'Under 15, l'Under 16, l'Under 17, cerchiamo mensilmente in date FIFA e a volte grazie alla bontà dei club anche non in date FIFA di convocare questi giocatori per permettere a loro di acquisire conoscenze. Oggi c'è la Spagna come esempio, la Spagna è campione d'Europa della 19, della 21 e della nazionale maggiore. È un sistema che funziona tutto. Con l'Under 17 ha vinto negli ultimi 10 anni 6 volte il campionato europeo, però loro specialmente con i giovani hanno una frequentazione che noi disconosciamo, dove 2 volte al mese si incontrano e stanno per 2 o 3 giorni assieme. Noi già riuscendo a farlo una volta al mese ogni 40 giorni dobbiamo ringraziare, però è una delle difficoltà che abbiamo rispetto a questa nazione che è riuscita a capire dopo molto tempo che il calcio, mi dicevano Butragueño e Guardiola, dice noi eravamo dei campioni individualmente, ma praticavamo uno sport di squadra. Nel momento in cui invece abbiamo sviluppato la tecnica collettiva, in quel momento è saltato fuori tutto questo popò. C'è stato il salto di qualità e sono arrivati, e che risultati sono arrivati? Sì, perché noi che ancora pensiamo, molti di noi, anche molti suoi colleghi, pensano che il calcio sia uno sport specialistico, individuale e difensivo, quando trovano un'azione che sta andando bene dicono: ma perché a Messi, molti si scordano che non è neanche spagnolo, oppure Iniesta, Xavi, però loro sono campioni d'Europa 17, 19, 21. Quindi, è tutto il movimento che ha imparato a costruire un progetto. Sacchi, intanto questa sera noi vediamo però un pezzo del nostro futuro, e la notizia bella secondo me è che già un pezzo anche del presente, perché questa sera vedremo Balotelli, El Shaarawy, vedremo Verratti che sono titolari, e nessuno si sogna di dire che è un'Italia B, un'Italia sperimentale. Io credo che da questo punto di vista, questo momento, che è un momento di crisi per il nostro calcio, in realtà stia portando in sé il germe di qualcosa di bello che sta nascendo. No, non sta nascendo, sono situazioni anomale che purtroppo la base è molto molto molto frammentata. Cosa vuol dire? I club investono esattamente il 30% o il 50% o il 70% in meno di quanto investono i club spagnoli. I club non hanno le academy, se eccetto la Juventus che l'ha aperto per la prima volta quest'anno, mentre Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Austria hanno academies. Academies vuol dire che in una settimana loro lavorano quanto noi grosso modo lavoriamo in un mese. Quindi sono delle eccezioni questi nomi. È frutto della straordinaria vitalità e l'amore che abbiamo per questo sport, il nostro background culturale, però ci deve essere un investimento maggiore. La federazione sta investendo molto, ci permette, per esempio noi facciamo adesso con le varie under più di 100 partite internazionali. Siamo riusciti, questo è una cosa che ci riempie di gioia, siamo riusciti grazie anche all'apertura di un tecnico coraggioso come Prandelli, è pieno di idee più che coraggioso, siamo riusciti a portare dall'under 18, under 19, under 20, under 21, 5-6 giocatori che, come Borini, Destro, El Shaarawy, Verratti. Insomma, riaprire quel canale di comunicazione che si era interrotto tra quella trafila che i giovani devono fare e la nazionale, il gruppo maggiore. Ma noi stiamo cercando di lavorare, cominciando con l'under 15, con un protocollo praticamente dove nei concetti generali, nella filosofia di gioco deve essere analoga e anche le situazioni devono essere analoghe. Dopo poi ci sta la sensibilità dell'allenatore, perché lei mi insegna che l'Otello è l'Otello per tutti, però certo, che lo diriga Muti o che lo diriga io c'è della differenza. Ognuno ha le sue caratteristiche. Io le rubo ancora 30 secondi. No, caratteristiche, non è fatto di caratteristiche. Ognuno ha la sua cultura calcistica, sensibilità, la sua capacità poi di interpretarlo. Le rubo gli ultimi 30 secondi e la domanda è questa, perché è vero che allora sono delle eccezioni, però è anche vero che ad esempio questo campionato ci sta portando alla ribalta tanti classe 92, tanti under 21, non solo italiani. Nell'ultimo fine settimana ad esempio abbiamo visto un ragazzino come Dybala, quello del Palermo, e molti hanno detto: ha il passaporto italiano, ha la cittadinanza italiana. Può in qualche modo interessare in prospettiva? È anche questa una delle strade che la federazione deve battere? Sì, la stiamo già battendo con la prima squadra. Non credo che Osvaldo sia nato in Italia, così come Balotelli, oppure lo stesso Thiago Motta, certo, Ledesma quando ha giocato. Lo stiamo già battendo. Anche noi abbiamo dei ragazzi che sono Battocchio, per esempio, gioca nell'Under 20, un italo argentino. Quindi se noi crediamo che se uno ha la cittadinanza italiana e ha l'ok della FIFA e dell'UEFA, e se lui preferisce giocare con noi, perché negarglielo? Quindi anche Dybala potrà essere in futuro un prospetto da questo punto di vista. Tecnicamente, e se lui, attenzione, perché c'è stato un ragazzo, per esempio, che ci ha detto che lui preferiva, certo, giocare, ed è giusto che allora vada in quella. Non vogliamo giocatori per forza, vogliamo giocatori che hanno piacere di venire ed essere italiani a tutti gli effetti. Grazie ad Arrigo Sacchi. Non abbiamo tante possibilità, non abbiamo molte partite e quindi dobbiamo per forza di cose iniziare a lavorare in funzione alla crescita, quindi se non li facciamo mai giocare saremo sempre qui a chiederci se sono in grado di reggere le pressioni. A me interessa domani proprio, come dicevo prima, la personalità, poi al di là ci possono essere degli errori, ci possono essere magari situazioni da correggere, ma domani voglio vedere una squadra, anche quei ragazzi che sta facendo questa esperienza qua, di dimostrare in campo la personalità. Se non ora quando, lo avete sentito, Cesare Prandelli, è un po' lo slogan, l'etichetta di questa amichevole tra Italia e Francia di questa sera a Parma. 800 24 00 24 per dirci in diretta che cosa ne pensate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati per scriverci su Twitter. Abbiamo sentito Arrigo Sacchi. Carlo da Napoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Buon pomeriggio e grazie della disponibilità. Niente, io per quanto abbia fatto praticamente delle riflessioni e cercato di capire, non sono riuscito a capire bene perché un giocatore così in forma, oltretutto con esperienza internazionale, non sia stato convocato, che è Quagliarella. Cioè, io un attimo di perplessità, mi aiuta a comprendere. Su perché Quagliarella non faccia parte di questa nazionale, dice? Perché non riesco a comprendere. Ma io non comprendo nemmeno, e ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e anche nel fine settimana, Carlo, ad esempio perché Quagliarella in questo momento sia la quarta, se non la quinta punta nelle gerarchie di Conte nella Juventus. Mi spiegano alcuni colleghi che seguono la Juventus da vicino che è anche una questione di movimenti e di compatibilità difficili, ad esempio tra lui e Vucinic, che è l'unico vero intoccabile nell'attacco della Juventus. Però è certo che Quagliarella, per il periodo di forma che sta attraversando e anche per la sua storia passata, perché prima di farsi male con la Juventus oramai 2 anni fa, non dimentichiamolo, era il miglior cannoniere di quella Juventus che prima del suo infortunio era in piena lotta per lo scudetto. Certo che Quagliarella starebbe bene in questa nazionale, così come starebbe bene sicuramente anche nella Juventus. Evidentemente Prandelli, così come Conte, hanno la possibilità di fare scelte diverse. Giuseppe dalla provincia di Chieti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Io per quanto riguarda la nazionale, credo che si potrebbe fare come nel calcio a 5, ossia sospendere i campionati quando loro giocano, anche per le qualifiche, eventualmente. E poi Allegri, secondo me Allegri andrebbe tolto. Grazie. Allegri dal Milan, dice, perché sì, con la nazionale non c'entra nulla. Sì, due cose diverse, sì. E lei non lo vuole più sulla panchina del Milan? Mi piacerebbe non vederlo più, insomma, attualmente. E chi vorrebbe al suo posto? Come, scusi? Chi vorrebbe al suo posto? Perché poi il problema non è tanto mandare via Allegri, perché Allegri si manda via semplicemente con una raccomandata, e a questo punto credo che troverebbe ben pochi difensori all'interno dell'ambiente Milan. Il problema è capire, una volta tolto Allegri e considerato che il budget resta comunque limitato anche eventualmente per stipendiare un altro allenatore, quale può essere l'alternativa, Giuseppe? Secondo me l'alternativa potrebbe essere Delio Rossi. Delio Rossi. Credo proprio di sì. Per traghettare il Milan fuori da questa situazione e in attesa di qualcosa di diverso. C'è chi parla di Guardiola, non è scontato, però va bene, anche questa può essere un'ipotesi. Grazie a Giuseppe. A proposito della partita di questa sera, come hanno fatto notare molti, riposa a mezza Juventus, questa volta il campionato non c'entra, o almeno non dovrebbe centrare, perché ad esempio Pirlo, che oggi partirà in panchina, non può giocare contro la Lazio sabato perché è squalificato. Comunque sentiamo come ha parlato Prandelli di queste sue scelte. Ma non hanno accettato, nel senso che si sono premuniti qualche settimana fa di prenotarsi, nel senso che qualsiasi era la situazione e le condizioni sarebbero venuti volentieri, quindi questo è stato un atto di grande attaccamento alla maglia azzurra. E poi per quanto riguarda le decisioni di tenerli in panchina, ovviamente prima o poi devono anche pensare che ci sono altri giocatori e io devo capire nell'emergenza o nelle scelte se abbiamo giocatori all'altezza a posto loro. Questo è Prandelli che spiega così l'esclusione oggi dall'11 titolare di Buffon e di Pirlo. Ci scrivono gli amici da casa al 349-238-6666. Vi prego, Balotelli è nato in Italia, è vero, ha ragione, è stato un errore di Arrigo Sacchi, non l'abbiamo corretto, però fa parte di quella generazione, chiamiamola, di nuovi italiani. Poi Roby che ci invita ad andare a vedere i giovani del Lecce, che certamente è uno dei vivai più importanti in questo momento del calcio italiano. E poi Alberto, magari non giocano abbastanza, ma mi sembra che squadre come ad esempio l'Inter stiano facendo abbastanza per i giovani, vedi vari Balotelli, Destro, Longo e così via, giocatori però, sottolineo io, che alla fine vanno a fare le fortune di altre squadre, come se mancasse il coraggio di fargli fare l'ultimo salto in casa dove sono stati creati. Sereno da Udine, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A voi e a tutto lo staff. Dica. Vorrei rammaricarmi con voi perché portate sempre in auge Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, Roma, Napoli e tutte il Napoli e tutte le squadre. E quando l'Atalanta, l'Udinese, il Catania e tutte le altre fanno salti mortali per vincere una partita e voi non siete accorti di queste cose, siete accorti di quelli che hanno i soldi in tasca. Sereno, la ringrazio e la saluto. Potrei dirle che ospitiamo tutte le domeniche il tecnico di una di queste realtà provinciali. Abbiamo avuto Cosmi, Pioli, Stroppa, che è l'allenatore del Pescara. Potrei dirle molte cose. Poi lei mi ha citato mezza Serie A. Più o meno noi facciamo quello che fanno anche i giornali, che fanno le televisioni, che fanno tutti. Cioè parliamo anche e soprattutto delle squadre che interessano la maggior parte di voi tifosi. Comunque grazie di averci chiamato. Intanto c'è da festeggiare la qualificazione alla semifinale della nazionale italiana di futsal, che ha battuto 4-3 il Portogallo nei quarti di finale. Ed è stata un'impresa, era sotto 3-0, poi 3-1 a due minuti dalla fine, poi tempi supplementari e vittoria per l'Italia, ce lo stavate chiedendo in tanti e dunque ecco il risultato, Italia-Portogallo 4-3, Italia in semifinale. Buon pomeriggio ad Alberto Polverosi. Salve, buonasera. Buon pomeriggio ad Alberto Polverosi, collega del Corriere dello Sport, che oggi a pagina 13 firma un commento, l'opinione, che si intitola «L'organizzazione, gli allenamenti e le partite inutili». Ce lo stanno chiedendo in tanti se questo Italia-Francia, ed insieme ad Italia-Francia ovviamente gran parte del calendario delle partite di oggi, delle nazionali, siano in realtà dei test inutili, se non dannosi. Guarda, ti ringrazio per la domanda perché volevo chiarire un po' l'aspetto. Italia-Francia non rientra in quelle amichevoli definite liberamente inutili. Italia-Francia è una partita di calcio. Le partite, le amichevoli inutili ci sono, esistono, il calendario delle nazionali non dico ne è pieno, ma ne mette nel programma diverse all'anno, ecco, e in quei casi lì quando il livello del confronto non è adeguato alla tradizione delle scuole di calcio, delle nazionali di calcio, allora diventano se non inutili, quantomeno poco indicative. E per questo la UEFA, come avete letto, ma per cambierà il calendario, la UEFA e la FIFA lo hanno deciso e mi pare di capire che alla fine si tratterà di spostare e di lavorare di lima su alcune date, perché in realtà il computo totale dei giorni per cui i club dovranno cedere i giocatori alle nazionali, gare ufficiali o amichevoli, resta comunque a mio parere anche pesante, perché 45 giorni nell'arco di un anno, considerato che questi giocatori sono stipendiati dai club, non è poco come sacrificio. Sì, e la tua visione, come dire, è una visione di club da Lega professionisti. No, io sono un romantico come te, sono contento, però va detta questa cosa. Sì, è vero, perché deve essere il calendario su 365 giorni, quindi non è che lo possiamo dilatare. Io dico che per l'esperienza, per diciamo il calcio che ho vissuto in questi anni, la nazionale rappresenta il movimento, il vero senso del movimento calcistico di un paese, non i club. Parlo dei cinque campionati più importanti, ovviamente, dove il trasferimento di stranieri da una parte all'altra snatura un po' questa essenza di cui parlavo prima. Io credo che la scuola olandese, per fare un esempio, sì, è stata data dall'Ajax senza discussione, però la nazionale di Mikkels ha contribuito in maniera fondamentale, è stata quella la chiave. Il calcio danubiano, la grande nazionale ungherese, noi ci ricordiamo di quella, della nazionale. La stessa Italia dell'82, è vero che la Juventus in quegli anni comandava, ma l'Italia dell'82 la ricordi come l'espressione del calcio italiano. Sì, non c'è dubbio. Non ricordi di meno il Milan di Sacchi. Sotto questo profilo. Per non parlare dell'ultima Inter di Mourinho, che di italiano aveva davvero pochissimo da questo punto di vista. Ti chiedo però se secondo te questa rivoluzione sperimentale dal 2014 in qualche modo potrà essere il compromesso che calma anche gli appetiti in parte legittimi dei club e mette al riparo le esigenze delle nazionali, perché poi è anche spiacevole lo spettacolo di CT, e non parlo soltanto di Prandelli, costretti al bilancino e al manuale Cencelli per mettere insieme le formazioni e le convocazioni di queste amichevoli soprattutto. Sì, e la speranza è questa, la speranza è proprio questa, che si riesca a trovare un punto di incontro, un punto di equilibrio fra esigenze, come dicevamo prima, molto diverse, francamente molto diverse. I club reclamano i propri giocatori sempre per sé, e in effetti sono quelli che li pagano, ma il calcio reclama ben altre cose. Il calcio, non bisogna dimenticarsi che i club fanno parte del calcio e non sono, è il calcio che deve guidare il movimento, il calcio deve essere la prima cosa intorno alla quale puoi ruotare tutti gli altri interessi. E se avviene invece che il contrario, cioè che il club diventa predominante su tutto il resto, il senso termina. Allora tanto vale abolire nazionale, abolire ritrovarsi ogni due anni per fare un torneo europeo o mondiale e finire lì. Detto questo, Alberto, dall'Italia di questa sera che cosa dobbiamo attenderci? Perché non è sperimentale, non è certamente l'Italia che domani giocherebbe la finale di un campionato europeo, però mi sembra che sia un'Italia comunque costruita su misura, anche considerando che l'avversario è la Francia. Sì, è un'Italia interessante, con dei giovani. Io sono molto incuriosito dalla presenza di Verratti come titolare, che Verratti è, può davvero diventare il futuro di Pirlo, cioè quando Pirlo deciderà di smettere, speriamo tardi, lui può prendere benissimo il posto. Sono incuriosito da Sciaravi e Balotelli, insomma, è una squadra che ha in sé un'idea per il futuro molto interessante, francamente molto interessante. Vediamo, perché stasera la Francia non è, come dicevo prima, non è una di quelle avversarie che non danno indicazioni, anzi sarà la partita vera, e per questo mi aspetto di vedere un'Italia a livello non dell'europeo, ma insomma un'Italia di buon livello. Lo stesso accadrà poi nella prossima amichevole contro l'Olanda. Grazie ad Alberto Polverosi, Corriere Grazie dello Sport. Buon pomeriggio a Livio dalla provincia di Lodi. Buongiorno. Prego. Volevo chiedere una cosa, prescindere, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedere una cosa, stamattina ho sentito sempre su radio Il Sole 24 Ore, sì. Penso che sia Giannino, adesso non mi ricordo esattamente. Radio 24, basta che non parla di politica, perché questo non è il contenitore giusto. Dica. Riguarda lo stadio della Juventus. L'area della Continassa. Esatto, lo stadio nuovo della Juventus, che non ho fatto in tempo a seguire tutta la cosa, ho acceso la radio che ormai era finito il dibattito. praticamente diceva che sarebbe stato costruito in parte con dei soldi dei contribuenti. No, glielo riassumo rapidamente. Nei giorni scorsi una polemica che sta facendo molto discutere a Torino: il comune ha approvato una variante delle volumetrie per i cosiddetti interventi che sono di contorno allo stadio, quelli ad esempio commerciali, con il raddoppio delle volumetrie che la Juventus potrà costruire, il tutto almeno al momento, ma dovrebbe essere effettuata probabilmente una nuova perizia, senza ritoccare il prezzo d'acquisto per la Juventus. E quindi lei capisce, con le casse dei comuni e del comune di Torino insieme agli altri comuni disastrate in questo momento dalla crisi, tutto questo ha suscitato più di una polemica e non soltanto politica. In realtà aspettiamo tutti la legge sugli stadi, che dovrebbe consentire di correre ad armi pari. Enzo dalla provincia di Napoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Prego. Niente, volevo magari un parere, certo. Vorrei parlare un attimo di Insigne, giocatore del Napoli, perché questo Insigne, non so se l'avete pure visto, sì. Per me, secondo me, non perché sono di parte, però ho visto che ha raggiunto una maturità enorme e quindi non ha assolutamente timori reverenziali verso nessuno. Lo vedo convocato per l'Under 21, eccetera, adesso è infortunato, va bene. No, cosa ne pensi di Insigne, magari puntare su un giovane, ma proprio come Insigne, che è un elemento capace, secondo me è già maturo, nonostante la responsabilità, questo volevo dire. Io Enzo la ringrazio, ma penso che faccia benissimo Prandelli. Insigne si è fatto un giro in Under 21 in questa occasione, esattamente come il Sharawi l'ha fatto un paio di mesi fa. Insigne ha visto già la nazionale esattamente come l'ha vista il Sharawi. Credo che metterli tutti insieme, così giovani e insieme, nello stesso momento, possa alla fine bruciarli, dando quella sensazione anche a noi, che poi la nazionale osserviamo, di squadre troppo sperimentali. Inserirli invece in maniera graduale è la scelta giusta. Consideri che per questa convocazione Prandelli ha chiamato 25 giocatori, è evidente, io l'ho chiamato con Arrigo Sacchi uno stage mascherato, è evidente che al di là dei 14-15 che giocheranno contro la Francia, l'interesse era proprio osservare questi giocatori in vista di un progetto futuro. Anche Insigne in questi mesi ha fatto parte e tornerà certamente a far parte di questo progetto. Qualche risposta veloce SMS arrivati al 349-238-6666. Secondo voi Zeman riuscirà a dare la sua impronta di gioco alla Roma di oggi? Scrive Lorenzo. No, la mia risposta è no. E poi chiedono se Balotelli non sta facendo lo stesso percorso sportivo di Cassano, e cioè l'eterna promessa e talento bruciato. Il rischio c'è. E ancora, secondo lei Guardiola verrebbe in questo Milan con questa rosa? La risposta è no. Credo si ragioni su un progetto differente, magari con i giovani, ma che prevede una serie di investimenti. E poi ancora Roby da Riccione, che dice: bisognerebbe organizzare le amichevoli in base alla classifica UEFA. Noi cambiamo pagina e parliamo di un tema che è tutt'altro che divertente, ma siete tutti convocati lo stesso, perché parliamo di doping, e lo facciamo con Sandro Donati, che saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ascoltano. Oggi consulente della WADA, per 35 anni ha lavorato con il CONI ed è presente proprio in queste ore, in questi giorni, nelle librerie con Lo sport del doping. 300 pagine che stanno facendo molto discutere, hanno provocato reazioni anche dure con annunci di querele, denunce, azioni legali. Perché la sintesi di questo lavoro fatto e scritto da Sandro Donati, che ripetiamo per 35 anni è stato dentro il CONI, è che in Italia c'è stato un sistema doping che, anche se non creato, è stato in qualche modo avallato o comunque non combattuto anche ai massimi livelli. Donati, come lo definiamo? Un libro bianco, un libro denuncia, un testamento? Ma guardi, intanto io mi meraviglio che molti cadano dalle nuvole, perché qui in questo libro io metto insieme una serie di fatti, alcuni dei quali noti, e quindi semplicemente io ho cercato, dopo tanti anni, di fare questo sforzo su me stesso, perché non lo volevo scrivere. Alla fine ho preso la decisione e dare il mio contributo, diciamo, a vedere delle parti della storia dello sport italiano che evidentemente non sarebbero mai affiorate, perché affiora sempre solo la patina dell'apparenza, delle vittorie apparenti. Lei ha letto le reazioni, il CONI in una nota ha scritto che le sue sono deduzioni spesso soggettive, c'è chi le ha annunciato cause e querele. era tutto prevedibile questo genere di reazioni? Ma guardi, io credo che in questi anni in cui io spesso ho prodotto dei documenti, dei dossier, di minacce di querele me ne sono arrivate veramente a centinaia e non sono arrivate mai a me. Ora, qualcuno può anche, per diciamo così, difendersi pubblicamente per una questione di immagine, avviare un'azione giudiziaria, ma poi bisogna sostenerla, e l'azione giudiziaria può essere anche una bella occasione per approfondire ulteriormente. Per tirare fuori tutti i documenti. Donati, lo sport in generale oggi e lo sport italiano in particolare, li possiamo definire puliti o più puliti del passato? Sono, e non soltanto lo sport italiano, perché qui siamo proprio di fronte al villaggio globale. Quello che succede in Italia grosso modo è quello che succede in diversi altri paesi. E no, semplicemente il doping è ben nascosto, ben mimetizzato, cioè mentre negli anni alla fine degli anni 90, all'epoca dell'indagine su Conconi, io riuscii a dimostrare che era organizzato centralmente, direttamente dal CONI e da alcune federazioni, ora questo errore non lo commetterebbe più nessuno. Ora si fa in modo che gli atleti se la sbrighino da soli, e questa è una fase ancora più, come si può dire, ancora più pericolosa, perché chi lancia il sasso è sempre nascosto nell'ombra, poi alla fine pagano sempre gli atleti solamente. Quante delle medaglie che abbiamo visto a Londra quest'estate sono dubbie? In fondo è stata un'edizione che viene celebrata anche per non aver visto una quantità rilevante di positività riscontrate. Sappiamo anche che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché è già accaduto in passato, dovremo abituarci magari a podi riscritti. Quanto sono veri quelli che abbiamo visto a Londra? Ma guardi, le rispondo in una maniera: ci sono tantissime sostanze farmacologiche che non si riesce a trovare nell'analisi delle urine, perché non ci sono dei sistemi di analisi in grado di trovarle, e questa è la prima risposta alla sua domanda. La seconda risposta è che anche quelle che si trovano, se vengono usate in delle microdosi molto accorte, oppure se vengono interrotte alcuni giorni prima del controllo, non si trovano lo stesso. E lei capisce, a questo punto, soprattutto in un sistema sportivo che di controlli a sorpresa ne fa pochi, è il caso Schwarzer insegna, ma li fa solo in gara, quindi quando sono ben previsti dagli atleti, la probabilità che gli atleti vengano trovati positivi è scarsa. Antidoping è una questione che va bene per il pubblico, come posso dire, che superficialmente si rassicura e immagina che ci sia un sistema di controllo. In realtà per gli addetti ai lavori è un giochino che è facile da aggirare. Certo, che effetto le ha fatto vedere l'albo d'oro cancellato per le 7 vittorie di Lance Armstrong? Che le risponderei una tantum. Ma lei l'avrebbe fatto? No, sì, ma io le dicevo che uno dei casi di cancellazione, peraltro anche paradossale, perché non sono stati in grado di assegnarlo ad altri, perché c'erano dubbi fortissimi anche sul secondo. Sarebbe stato imbarazzante. Imbarazzante. Le dicevo che chissà quanti albi di gare, non solo del ciclismo, bisognerebbe riscrivere, capisce? Quindi apposta le dicevo una tantum, nel senso che il caso Armstrong è un caso che ha fiorato. Poi sarebbe interessante anche vedere perché poi è stato spinto da ragioni di carattere economico, quindi lui stesso è stato vittima di un meccanismo, nel senso che aveva ricevuto da una compagnia d'assicurazione statunitense dei compensi elevatissimi, perché così diceva il contratto, in base alle vittorie consecutive al Tour de France, un contratto che lui aveva fatto dopo che era guarito dalla sua malattia. E a questo punto questi sì, sono intrecci che hanno veramente poco a che fare con lo sport. Ma si può dire che chi di spada ferisce di spada perisce, perché nel caso suo lui ha monetizzato, e ce lo certo. Dicono anche le testimonianze dei corridori australiani e di altri paesi, che lui arrivava pure a comprare le gare. Ma oggi esistono ancora sport protetti? Lei ha citato il ciclismo si sente sotto assedio. Qualche anno fa abbiamo scoperto ad esempio che i controlli sul calcio in Italia non erano poi così rigidi. Mi consenta di dire, non è che l'abbiamo scoperto per caso. No, perché ne parlo Zeman. Anche. No, Zeman ha un merito grosso, quello di aver sollevato il problema delle farmacie nelle squadre di calcio. In seguito a questo il PM Guariniello aprì un'indagine alla procura di Torino, il giorno dopo Zeman, che era il 18 di agosto, fui chiamato io nel 98 ed Guariniello mi pose la domanda: che cosa pensa del doping del calcio? Io dissi, io rispondo alla sua domanda, che se mi consente ne richiede una preliminare: come si fa l'antidoping nel calcio? E lì venne fuori quello che io credo in questo momento, e penso sia la colpa più grande, ma anche per noi operatori dell'informazione in molti dimenticano, perché poi la vicenda fra Zeman e la Juventus è rimasta soltanto la vicenda di un anti-juventino che ce l'ha con la squadra più potente del nostro calcio, mentre invece c'è stato tanto altro. Donati, io la ringrazio e la saluto, purtroppo siamo in chiusura, ma se mi consente torneremo a disturbarla. Va bene, la saluto e la ringrazio. Grazie a Sandro Donati, lo sport del doping in libreria per ricostruire 30 anni di doping nello sport italiano e non solo. Io mi fermo qui, un ringraziamento a Franco Piantanide in redazione, Roberto Scaltritti in regia, un saluto da Giovanni Capuano, l'appuntamento con tutti i convocati è per domani a partire dalle 14:05.